mio cuore batteva a tutta forza. Non avrei potuto dire esattamente come fosse fatta Mademoiselle de Bourcheville. Rivedevo vagamente un viso biondo intravisto di lato, ma ero innamorato, pazzo, di lei. E di colpo m'accorsi che stavo ragionando come se, fra le tre, Mademoiselle de Bourcheville fosse proprio la bionda che s'era voltata e m'aveva guardato due volte. Ora, il portinaio non me l'aveva detto. Tornai alla guardiola, l'interrogai di nuovo, mi disse di non potermi ragguagliare su questo punto perché erano venute oggi per la prima volta e mentre lui non c'era, ma avrebbe chiesto a sua moglie che le aveva già viste una volta, stava facendo la scala di servizio. Chi nel corso della sua vita non ha incertezze più o meno simili a queste e altrettanto deliziose? Un amico caritatevole, cui si è descritta una fanciulla vista a un ballo, ha ricostruito che deve trattarsi di una sua amica e vi invita con lei. Ma fra tante altre, e sulla base di un semplice ritratto orale, non ci sarà stato un errore? La fanciulla che vedrete fra un istante non sarà un'altra, una diversa da quella che desiderate? O state invece per vedere proprio lei, quella che speravate che fosse, tendervi sorridendo la mano? Quest'ultima probabilità è abbastanza frequente e non sempre è giustificata da un ragionamento così probante come quello che concerneva Mademoiselle de Bourcheville, risultato di una sorta di intuizione e anche di quel soffio di fortuna che a volte ci favorisce. Allora, vedendola ci diciamo, è davvero lei. Mi ricordai che nella piccola banda di fanciulle che passeggiava in riva al mare avevo indovinato esattamente quale si chiamasse Albertine Simone. Questo ricordo mi provocò un dolore acuto, ma breve. E mentre il portinaio andava in cerca della moglie, immaginai soprattutto, pensando a Mademoiselle de Bourcheville come in quei minuti d'attesa in cui un nome, una notizia che uno ha adattati chissà perché a un certo volto si trovano ad essere momentaneamente liberi e fluttuano fra parecchi, pronti, se aderiscono a un altro, a rendere retrospettivamente ignoto, innocente, inafferrabile il primo su cui vi avevano informati, che il portinaio sarebbe forse venuto a dirmi che Mademoiselle de Bourcheville era invece una delle due brune. In questo caso sarebbe svanito l'essere alla cui esistenza credevo, che già amavo, che vagheggiavo ormai soltanto di possedere quella bionda e sorniona Mademoiselle de Bourcheville, che il responso fatale avrebbe allora dissociato in due elementi distinti che io avevo arbitrariamente uniti, come fa un romanziere quando fonde diversi elementi prelevati dalla realtà per creare un personaggio immaginario e che, presi separatamente, avrebbero perso, il nome non corroborando l'intenzione dello sguardo, qualsiasi significato. In quel caso, i miei argomenti sarebbero risultati distrutti. Ma quanto invece risultarono fortificati quando il portinaio venne a dirmi che Mademoiselle de Bourcheville era proprio la bionda. Ah, ormai non potevo più credere a un'omonimia. Sarebbe stato un caso troppo strano che di quelle tre fanciulle una si chiamasse Mademoiselle de Bourcheville fosse proprio, il che costituiva una prima verifica topica della mia supposizione, quella che mi aveva guardato in quel modo quasi sorridendomi e non fosse quella che frequentava le case d'appuntamenti. Cominciò allora una giornata di folle agitazione. Prima ancora di correre a comprare tutto ciò di cui ritenevo opportuno agghindarmi per produrre una migliore impressione, quando due giorni dopo sarei andato a trovare Madame de Guermont, dalla quale avrei dunque incontrato una fanciulla facile e avrei preso appuntamento con lei, avrei ben trovato il modo, infatti, di parlarle un istante in un angolo del salotto, andai, per maggior sicurezza, a telegrafare a Robert, chiedendogli il nome esatto e la descrizione della fanciulla, nella speranza di ricevere la sua risposta entro due giorni, cioè prima di quando la fanciulla, così mi aveva detto il portinaio, sarebbe tornata a fare visita a Madame de Guermont. E io non pensavo assolutamente ad altro, nemmeno ad Albertine, Sarei andato, qualsiasi cosa potesse capitarmi prima d'allora, avessi anche dovuto farmici portare in barella se mi fossi ammalato, a far visita alla duchessa alla stessa ora. Se telegrafavo a Saint-Loup, non era perché mi restasse qualche dubbio sull'identità della persona, perché la fanciulla vista e quella di cui lui mi aveva parlato fossero ancora per me due persone distinte. Non dubitavo che fossero una sola. Ma nell'impazienza con cui aspettavo che fosse dopodomani, mi era dolce. Era già come avere un potere segreto su di lei, ricevere un telegramma che la concernesse pieno di particolari. All'ufficio del telegrafo, mentre compilavo il mio telegramma con l'animazione di un uomo riscaldato dalla speranza, notai come fossi meno disarmato che nella mia infanzia e nei confronti di Mademoiselle de Bocheville che in quelli di Gilbert. Non appena mi fossi preso la semplice briga di scrivere il testo del telegramma, bastava che l'impiegato lo prendesse e che le più veloci reti di comunicazione elettrica lo trasmettessero per tutta l'estensione della Francia e del Mediterraneo e tutto il passato mondano di Robert si sarebbe impegnato a identificare la persona che avevo appena incontrata. Si sarebbe messo al servizio del romanzo che avevo appena abbozzato e a cui non avevo nemmeno bisogno di pensare perché si sarebbero incaricati loro di concluderlo in un senso o nell'altro prima che fossero trascorse 24 ore. Mentre allora, una volta che dai Champs-Élysées Françoise m'aveva riportato a casa, lì, nutrendo in solitudine desideri impotenti, non potendo usare i mezzi pratici della civiltà, io amavo come un selvaggio. O addirittura, dato che non avevo la libertà di muovermi, come un fiore. Da quel momento, il mio tempo scivolò via nella febbre. Mio padre mi chiese di accompagnarlo in un'assenza di 2 giorni che mi avrebbe fatto mancare la visita dalla duchessa, mettendomi in uno stato tale di rabbia e di disperazione che mia madre si interpose e ottenne da mio padre che mi lasciasse a Parigi. Ma la mia collera non si placò per diverse ore, mentre il mio desiderio di Mademoiselle de Bocheville era stato centuplicato dall'ostacolo gettato fra di noi, dal mio momentaneo timore che quelle ore della visita a Madame de Guermont, alle quali non cessavo di sorridere in anticipo, come a un bene sicuro di cui nessuno avrebbe potuto privarmi, non si avverassero più. Certi filosofi dicono che il mondo esteriore non esiste e che la nostra vita la sviluppiamo solo dentro di noi. Comunque sia, l'amore, anche nei suoi più umili inizi, è un esempio lampante di quanto poco sia per noi la realtà. Se avessi dovuto disegnare a memoria un ritratto di Mademoiselle de Bocheville, fornire la sua descrizione, i suoi connotati, mi sarebbe stato impossibile. Così come riconoscerla per la strada. L'avevo intravista di profilo, in movimento. Mi era sembrata bella, semplice, alta e bionda. Non avrei potuto dirne niente di più. Ma tutte le reazioni del desiderio, dell'ansia, del colpo mortale assestato dalla paura di non vederla se mio padre m'avesse portato con sé, tutto questo, associato a un'immagine che in fin dei conti non conoscevo e che bastava che io sapessi gradevole, costituiva già un amore. Finalmente, la mattina successiva, dopo una notte d'insonnia felice, ricevetti il telegramma di Saint-Loup. De l'Orgeville, de particella, Orge graminacea come la segale, Ville come villa, piccola, bruna, grassottella, è attualmente in Svizzera. Non era lei. Qualche giorno dopo, mia madre, entrando in camera mia con la posta, la posò sul mio letto con noncuranza, come se pensasse ad altro, e andando via subito per lasciarmi solo, mentre usciva, sorrise. E io, conoscendo le astuzie della mia cara mamma e sapendo che si poteva sempre leggere nel suo viso senza timore di sbagliarsi se si prendeva come chiave il desiderio di far piacere agli altri, sorrisi e pensai: c'è qualcosa di interessante per me nella posta, e la mamma ha affettato indifferenza e distrazione perché la mia sorpresa fosse totale e per non fare come chi vi toglie metà di un piacere annunciandovelo prima. E non è rimasta perché teme che, dissimulandolo per amor proprio, io provi un piacere meno intenso. Ma mentre andava verso la porta per uscire, mia madre aveva incontrato Françoise che stava entrando. E la mamma l'aveva costretta a fare marcia indietro e l'aveva trascinata fuori, spaventata, offesa e stupita. Françoise era infatti convinta che il suo incarico comportasse il privilegio di penetrare a qualsiasi ora in camera mia. Ma già sul suo viso sbalordimento e ira erano scomparsi sotto il sorriso nerastro e appiccicoso di una pietà trascendente e di un'ironia filosofica, liquido vischioso che il suo amor proprio leso secerneva per guarire la propria ferita. Per non sentirsi disprezzata, Françoise ci disprezzava. Lo sapeva bene lei, che eravamo dei padroni, esseri capricciosi che non brillano certo per intelligenza e che si divertono a imporre col terrore a persone di spirito, i domestici, giusto per far vedere che sono i padroni, compiti assurdi come far bollire l'acqua in periodi d'epidemia, spazzare la mia camera con uno straccio bagnato e uscirne esattamente nel momento in cui uno aveva intenzione di entrarci. Nella fretta la mamma si era portata via la candela. Mi accorsi che aveva messo la posta proprio accanto a me perché non potesse sfuggirmi, ma vidi che erano solo giornali. Probabilmente c'era qualche articolo di uno scrittore che amavo e che sarebbe stato per me una sorpresa perché ne scriveva di rado. Andai alla finestra, scostai le grandi tende. Sopra la livida, brumosa luce del giorno, il cielo, che era rosa come lo sono a quell'ora nelle cucine, i fornelli appena accesi, mi riempì di gioia e del desiderio di passare la notte e di svegliarmi nella piccola località di montagna dove avevo visto la lattaia dalle guance rosate. Aprì Le Figaro. Che noia! Proprio il primo articolo aveva lo stesso titolo di quello che avevo mandato io e che non era stato pubblicato. Ma non solo lo stesso titolo. Ecco qui alcune parole assolutamente identiche. Era troppo. Avrei spedito una lettera di protesta. E sentivo Françoise indignata d'essere stata estromessa dalla mia camera, dove credeva d'avere libero accesso, borbottare: «Che vergogna! Un ragazzo che si è visto nascere! Non l'ho visto mentre sua madre lo faceva, questo no! Ma lo conosco che non aveva ancora 5 anni!» Ma non erano alcune parole, era tutto. Era la mia firma. E il mio articolo. L'avevano pubblicato, finalmente! Ma il mio pensiero, che forse a quel tempo aveva già cominciato un poco a invecchiare e a stancarsi, continuò ancora per un istante a ragionare come se non avesse capito che era il mio articolo. Come vecchi, costretti a completare fino in fondo il movimento che hanno cominciato anche se è diventato inutile. Anche se un ostacolo improvviso davanti al quale bisognerebbe immediatamente fermarsi lo rende pericoloso. Poi riflettei su quel pane dello spirito che è un giornale, ancora caldo e umido della stampa recente e della nebbia del mattino in cui viene distribuito, sin dall'aurora, alle donne di servizio che lo portano al padrone con il caffè e il latte, pane miracoloso, moltiplicabile, che è insieme 1 e 10.000 e rimane lo stesso per ciascuno, pur penetrando insieme innumerabile in tutte le case.